Radio 24 Reportage. Don Milani 50 anni dopo. La scuola di fronte ai nuovi ragazzi di Barbiana. Di Maria Piera Ceci. Se ci vorrebbe una bella lettera a tutte le maestre e a tutte le professoresse d'Italia. Voi dite d'aver bocciato i cretini e gli svogliati. Allora sostenete che Dio fa nascere i cretini e gli svogliati nelle case dei poveri. Ma Dio non fa questi dispetti ai poveri. È più facile che dispettosi siate voi. Datemi i vostri foglietti, li unisco agli altri. E così nasce Lettera ad una professoressa, testo pubblicato nel 67 e realizzato dai ragazzi della scuola di Barbiana sotto la guida di Don Lorenzo Milani. Un forte atto di accusa contro la scuola italiana, una scuola fatta per i ricchi e da cui i poveri vengono esclusi per essere ricacciati dopo qualche anno di scuola elementare nelle fabbriche, nei campi, senza aver conquistato quel minimo di consapevolezza sociale che li renda dei veri cittadini. Moltitudini destinate a rimanere schiave a vita. Ma anche un atto d'accusa nei confronti della società italiana nel suo intero e della Chiesa dell'epoca. Non fu facile il rapporto di Don Milani con l'autorità ecclesiastica, guardato con sospetto già quando fonda la sua prima scuola popolare, destinata agli operai adulti a San Donato di Calenzano. Don Milani vede prima censurare dal Santo Ufficio esperienze pastorali, censura rimossa solo di recente da Bergoglio. Poi nel 54 l'esilio a Barbiana, paesello sperduto sul Monte Giovi, su cui Papa Francesco si arrampicherà il 20 giugno per pregare sulla tomba di Don Milani in occasione del 50° anniversario della sua morte. Si ricuce così definitivamente lo strappo con una chiesa che non aveva capito il messaggio rivoluzionario o lo aveva condannato proprio perché lo aveva capito molto bene. Oggi un messaggio più vivo che mai in una scuola che deve affrontare nuove sfide. Ne è convinto Eraldo Affinati che con L'uomo del futuro, edito da Mondadori, ha voluto riscoprire la figura di Don Milani e andare a cercare i Don Milani di oggi. Fare le parti uguali fra diseguali, diceva il priore, sarebbe un errore. Ecco, io credo che questa battuta di Don Lorenzo Milani sia ancora oggi più che valida, visto che spesso la scuola italiana va per parametri oggettivi di valutazione, quindi rischia di, diciamo, di non guardare negli occhi il ragazzo che ha di fronte. Lei nel libro ha cercato i Don Milani di oggi nei quattro angoli della terra e in Italia. Le chiedo chi sono i ragazzi di Barbiana di oggi, cioè quelli che Don Milani non avrebbe abbandonato ad un destino già segnato di ignoranza, di povertà, eccetera. Chi sono i ragazzi di Barbiana di oggi, secondo lei? Sono i ragazzi immigrati, che hanno lo stesso problema linguistico che avevano i bambini dell'Appennino Tosco-Emiliano ai quali si rivolgeva Don Milani. Io insegno proprio, io e mia moglie abbiamo creato una scuola, la Penny Wharton, per insegnare l'italiano uno a uno a questi ragazzi spesso minorenni non accompagnati, che sono proprio i ragazzi di Barbiana di oggi, quindi in qualche modo ripropongono in una scala planetaria quello che Don Lorenzo Milani aveva visto in modo regionale, per così dire. Ma lui era già consapevole, già ai suoi tempi, in questo è un aspetto quasi profetico, di quelle che sarebbero state le Barbiane del futuro, che appunto sarebbero state, come poi è successo, in Africa, in Asia, nel mondo slavo. I nostri ragazzi sono quelli che arrivano in Italia e vengono messi nei centri di pronta accoglienza, prima ancora di essere inseriti nelle classi scolastiche. Sono minorenni non accompagnati dai 14 ai 18 anni. Poi abbiamo anche rifugiati politici, abbiamo anche donne con bambini, adulti che vengono in proprio. E quindi sono tutte persone che naturalmente, imparando la lingua italiana, possono innanzitutto ricostruire la loro stessa vita, imparando a capire quello che hanno vissuto, anche perché molti di loro sono analfabeti nella lingua madre, non hanno cioè mai tenuto una penna in mano, e poi soprattutto possono trovare lavoro e ottenere il permesso di soggiorno. Quindi diciamo che alla Penny Wharton queste persone possono diventare i nuovi italiani. In questo momento però la grande novità è l'alternanza scuola-lavoro, cioè noi coinvolgiamo ragazzi italiani, liceali, studenti delle medie superiori ad insegnare l'italiano ai loro coetanei immigrati. Quindi le 200 ore di tirocinio formativo che ogni studente deve fare possono farlo anche trasformandosi in piccoli docenti, ovviamente dopo opportuna formazione. Questo è nello stile di Don Lorenzo Milani, al quale spesso quando gli chiedevano priore ci dica come bisogna fare scuola, lui rispondeva dicendo basta mettere alcuni sedicenni vicino ad altri dodicenni a fargli fare il doposcuola, e lì capirete che la scuola può essere anche un'esperienza di vita umana molto importante. Ed è proprio questo che fa anche un'altra associazione a Milano, si chiama Porto Franco. Lo spirito è esattamente quello di Don Milani, adolescenti in arrivo da tutto il mondo aiutati dai coetanei. E questa è la storia di Hamza, 22 anni, ex studente dell'Istituto Tecnico Commerciale, ora studente di successo a Scienze Politiche alla Cattolica. Aiutato da Porto Franco, ora vuole mettersi a disposizione di chi ha bisogno, proprio come lui qualche anno fa. Io all'età di 14 anni vivevo a Casablanca, poi da un tratto sono partito per l'Italia perché avevo questa possibilità di studiare all'estero, ma l'unico paese in cui potevo studiare era l'Italia perché avevo dei parenti a Milano che mi potevano ospitare, e quindi è tutto nato da qui. E io ovviamente, vivendo senza genitori, ho fatto molta fatica all'inizio nella scuola. E problemi di lingua forse anche? Anche, ma non solo quello, ma anche metodi di studi, come affrontare le persone, o soprattutto anche perché non c'era nessuna persona che mi faceva presente ai professori, cioè non c'era nessuno che mi diceva guarda che questo ragazzo aveva bisogno, perché poi i professori non è che ti seguono, non seguono la persona singola. Se un ragazzo ha difficoltà a scuola, trovi che non sempre l'ambiente sia accogliente per accompagnarlo e migliorare? No, ma perché comunque è ogni ragazzo ha una storia alle spalle, ogni ragazzo ha delle problematiche che però bisogna che i professori o ci sia qualcuno che li segua o anche lì. Tu hai avuto la tentazione di scappare via dalla scuola e smettere di frequentare? No, grazie a Dio, anche perché sapevo l'importanza della scuola e quindi volevo passarla, anche se avevo difficoltà, volevo essere promosso e comunque diplomarmi. Come professoressa io ho il dovere di essere giusta. A me non interessa se il padre di uno di questi ragazzi ha il conto in banca oppure se è un poveraccio. O ricco, povero, se uno merita 4, io gli metto 4. E sbaglia. Perché fare parti uguali tra diseguali è la cosa più ingiusta di questo mondo. La mattina vi fate pagare dallo Stato per fare scuola a tutti. Poi la sera a parte vi fate pagare dai ricchi per fare ripetizione ai loro figlioli. E poi a giugno vi sedete nei tribunali a spese nostre per giudicare le differenze che voi stessi avete contribuito a costruire. Così un bravissimo Sergio Castellitto nei panni di Don Milani nella fiction che andò in onda a fine anni 90. Fare parti uguali fra diseguali non è giusto, diceva il priore di Barbiana. Ma chi sono gli ultimi di oggi che arrivano a Porto Franco? Il presidente Alberto Bonfanti. L'elemento della lingua è un elemento non secondario per il 40% dei ragazzi che abbiamo a Porto Franco, che quindi va affrontato. E rischia di essere quasi una barriera superata la quale si trovano ragazzi che hanno lo stesso desiderio, sia che vengano dai paesi del Mediterraneo, piuttosto che vengano da altre parti del mondo, piuttosto che siano italiani. E anche qui sono spesso i ragazzi ad aiutare i loro quasi coetanei in difficoltà. Beh, è un'esperienza straordinaria, innanzitutto da vedere, perché tantissime volte per un ragazzo in età tra i 14 e i 18 anni, poter vedere qualcuno che ha pochi anni più di lui, che ha in qualche modo investito del suo tempo e della sua libertà continuando a studiare, fa da stimolo e fa nascere una serie di domande anche semplici del tipo ma perché tu continui a studiare anche se potevi smettere? E questo anche nella sua semplicità diventa un'occasione con la quale i ragazzi sono provocati da quelli poco più grandi di loro. Bambini, riposo. Posso? Attenti, mi tocca la curiosità, ma lei è un sergente maggiore o una maestra? No, perché dalle vostre scuole è meglio scappare, sa? Mi dispiace per lei, non c'è che questa nel raggio di 20 chilometri. E lo so, purtroppo. Vorrà dire ce ne faremo un'altra, eh? Don Milani scriveva, qualche volta viene la tentazione di levarseli di torno, ma se si perde loro, la scuola non è più scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge gli ammalati. Ammalati che poi si perdono per strada, lasciano la scuola, mettono in crisi tutta la famiglia, come sa bene Francesco Dell'Oro, che per anni ha curato il servizio di orientamento del Comune di Milano e autore di Tutta un'altra scuola. Chi sono dunque questi ragazzi? Sono quei ragazzi, quelle ragazze che noi a volte travolgiamo con giudizi improvvidi, definitivi, ultimativi. Un bravo insegnante, l'insegnante straordinario di cui abbiamo bisogno, e ce ne sono nella scuola, sono quegli insegnanti che hanno compreso che la valutazione scolastica, così come è stata interpretata in questi anni e come viene interpretata, è tutta da rifondare. La valutazione scolastica a volte diventa un'arma impropria e che porta a ferire le persone. Il ragazzo in difficoltà offre una grande opportunità per qualificare la scuola e la professionalità di noi insegnanti, perché il ragazzo in difficoltà è una benedizione. La scuola deve essere il luogo elettivo dell'errore. E allora è vero, mi arrivano ragazzi e ragazze in ritardo nei processi di crescita, di maturazione, mi arrivano però troppe anime ferite da una scuola che purtroppo li giudica in modo improvvido. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.